con Roberto Proia di Eagle Pictures per parlare del film Green Book in uscita in sala giovedì 31 gennaio 2019. Roberto, ben trovato. Bentrovati anche a voi, ciao. Lo raccontiamo brevemente? Sì, è la storia vera di un'amicizia abbastanza inusuale, quella tra un musicista di colore molto ricco e molto sofisticato che, avendo bisogno di un autista che lo porti in tournée nelle regioni un po' del sud dell'America, quelle un po' più razziste negli anni 60, ha anche bisogno un po' di una guardia del corpo. Trova Viggo Mortensen, Tony Lip, appunto personaggi realmente esistiti, e il rapporto tra i due all'inizio è abbastanza burrascoso perché Viggo Mortensen, insomma, è un po' razzista anche lui, eccetera, ma da questo incontro-scontro nascerà invece una bellissima amicizia che poi nella realtà è durata fino alla fine dei loro giorni. È stata un'amicizia fantastica. Infatti, la sceneggiatura è scritta dal figlio del personaggio che interpreta Viggo Mortensen. Che tu sappia all'estero che successo ha avuto. Allora, il film ha avuto un successo medio all'inizio quando è uscito in America, e poi con il passaparola si è chiaramente, con i vari Golden Globe vinti, le nomination acquisite, insomma, è esploso. Adesso credo sia intorno ai 42-44 milioni di dollari. Nel resto del mondo, nei paesi importanti, non è ancora uscito. Diciamo, siamo noi e la Gran Bretagna a guidare il contingente europeo uscendo giovedì. Peter Farrelly, lo ricordiamo a chi ci ascolta? Sì, Peter Farrelly è uno del duo registico che è dietro a tutti i pazzi per me, tanto per dire uno scemo più scemo, quindi tutto ci si aspettava da lui che avesse la sensibilità per trattare un argomento di questo tipo, però ha fatto un ottimo lavoro e a riprova di questo, appunto, sono cercate le varie nomination, poi il film ha vinto il Festival di Toronto battendo film più blasonati come appunto il film di Bradley Cooper A Star is Born, piuttosto che altri, La Favorita e Compagnia Bella, quindi insomma ha fatto un lavoro che, diciamo, nessuno si aspettava facesse e ha funzionato molto bene, quindi ha intrapreso una nuova carriera da regista serio. Ecco, proprio in base a questo, sai qualcosa della genesi curiosa, insomma, rispetto al suo percorso precedente di questo film? Sì, al regista era stato sottoposto il soggetto, ma non per farlo dirigere a lui, così come guarda un po' che cosa ho trovato, guarda questo progetto, e non sapendo che lui in realtà stava cercando da parecchio tempo un film che lo facesse uscire da quelle corde che ormai conosceva fin troppo bene. Chiaramente però ha dovuto vincere lo scetticismo di parecchi produttori perché a lui non volevano affidarlo, finché non ha trovato nella produzione partecipante invece un partner adatto, e da lì in poi è entrata negli Stati Uniti Universal e vabbè, poi il film ha preso la storia che ha preso, ma diciamo, non doveva venire alla luce questo film, il che rende tutto anche ancora più speciale. Quali sono gli elementi di questo film che più ti hanno convinto? Sicuramente l'umorismo, in questo ci no, noto anche appunto il fatto che il regista sia comunque molto bravo nella commedia, perché sì, pur trattando di argomenti seri, intrattiene e i due personaggi sono molto tridimensionali, cioè alla fine c'è una recensione che dice vorresti non finisse mai, in realtà è vero perché dura poco meno di 2 ore, ma alla fine del film ti viene voglia di saperne di più perché poi insomma non racconto come finisce il film, però ha un bellissimo finale. Diciamo, ti dispiace lasciare andare questi personaggi che hai amato per 2 ore. Anche gli altri personaggi di contorno sono molto ben definiti, specialmente la moglie di Viggo Mortensen, che è una strepitosa Linda Cardellini. Roberto, che tipo di distribuzione sarà? Usciremo in 330 copie e credo che il percorso sarà un percorso molto interessante. Partiremo già molto bene sicuramente, ma diciamo che non ho problemi a essere scaramantico e dire che a mio avviso è il film che vincerà l'Oscar come miglior film e questo farà sì che il box office insomma esploderà da 2 o 3 settimane ancora di più. E allora ricordiamo il film Green Book di Peter Farrelly in uscita in sala giovedì 31 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Roberto Proia di Eagle Pictures che Grazie a lo voi. Grazie distribuisce. Roberto, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. a voi. Buon lavoro. Ciao.